ti ho preso. Auguri buon Natale. Chi è? Io. Ehi, Antonè, buon Natale. Ehi, buon Natale anche a te. Ma mi sembra che mi sarà. Ti ho chiamato stamattina. Fatti gli auguri, ero a coso, ero la Sonia, sotto casa che l'ho aperto. Hai capito? Mi sono bevuto un paio di birre e dopodiché sono salito a casa a fare il pranzo. Infatti poco fa ti ho mandato un messaggino su WhatsApp dicendoti che avevo trovato una tua chiamata, ma no, ero uscito senza telefono perché eravamo andati da mia suocera e mi avevo dimenticato il cellulare a casa, infatti era pieno di messaggi eccetera. E infatti adesso siamo rientrati a casa e niente, chi si riposa, chi... Io ero in cucina guardando un po' di televisione, ho detto adesso accendo la radio se c'è qualcuno. Infatti, no, io... Ieri sera non sono neanche entrato a baracchino, ero a casa di Giovanna, sono passata lì e sono entrato alla una, dopodiché mi sono coricato e stamattina alle 10:30, 11 ho fatto il pranzo. Poi ho detto, siccome siamo un appuntamento con Sonia, quella le papasticine per me dice gli auguri, dice fammi una mattina, mi ha detto. Adesso dice no, non fa, ci vediamo domani, mi ha detto. Allora ho preso e ci avevo promesso, sono andato. Sono bevuto due birre, dopodiché con calma, infatti che ho fatto, lo stavo distribuendo torte, dopodiché quando stavo a chiudere sono entrato a casa, ho cucinato il salsiccione e me lo sono mangiato, mi sono mangiato il salsiccione. Mi sono rilassato un pochettino. Io lo stesso, adesso sono in relax, praticamente io stamattina sono uscito alle 4:30 perché alle 5 ero a lavoro, solo che c'erano solo i primi due voli della continuità, Roma e Milano, e alle 7:15 sono partiti tutti e due. E il volo successivo era sempre un volo di continuità alle 16, allora ho detto che se c'è un volontario che rimane solo per fare la vigilanza dentro, invece fuori già c'erano gli altri, noi ho detto cosa ci stiamo a fare qua sino a mezzogiorno, ho detto ce ne stiamo qua perché cosa, non c'è nessuno, non ci sono voli, ci siamo fatti il permesso, praticamente sono uscito alle 7:30, alle 8 ero già a casa, quindi mia moglie stava già cucinando eccetera perché doveva portare qualcosa dalla madre eccetera, allora siamo andati a pranzo là e niente, mi rientrati poco fa. Hai fatto bene, fatto, a me ero sempre tranquillo, tanto se non c'era nessuno non ci facevi di là, magari perse le chiavi dei cupri facendo straordinari, cosa te ne frega, cioè di all'aeroporto non ci fai a guardarti i cazzi muri a un certo punto. Allora che non vi organizzavate per dire un pranzo lì direttamente, poi rientravate a casa, ognuno a casa sua. No, lì non ci fai niente. Pensa che anche i poliziotti erano solo due in servizio stamattina perché c'erano solo quei due voli. Praticamente come hanno imbarcato hanno chiuso l'ufficio di polizia ed erano al bar bevendo, figurati, prendendosi il caffè e chi facendo colazione. Ho detto prendo, me ne vado a casa, mi sono fatto il permesso, ho detto beh ci vediamo a domani. Domani sono di pomeriggio invece, dalle 14 alle 21. Però domani ci sono i voli, capito? Oggi Ryanair, EasyJet, tutte le compagnie low cost non viaggiano, capito, il giorno di Natale, però si scatenano domani quelli, i voli che non c'erano oggi li mettono domani. Beh, è una cosa logica, cioè a Natale chi vuole fare il giorno di Natale? Nessuno, a parte la cultura che prende, che l'ha preso il giorno prima, ma ti pare che prende il volo per rientrarsene? Se rientra domani, sventi a casa al limite della suocera, dei parenti, quello che è, poi non è che sta arriva il giorno prima, fa la cena, si svuota e poi domani prendo l'aereo per dire la una. Non esiste, capito? Manco fosse quello può farlo magari un coso, ma non lo fa nemmeno neanche lui, un politico. Sì, ma è tutto fermo. Chi è partito stamattina sicuramente che è gente che ha fatto il cenone, che non è entrata neanche a letto, poi si è preso l'aereo, magari è a pranzo, adesso va dai parenti, fanno tutta una tirata, ma infatti chi è partito stamattina erano giovani, gente così, famiglie con bambini, roba del genere, neanche ce n'erano stamattina. Uomini d'affari, diciamo, persone che lavorano fuori, è tutto fermo adesso per Natale. Infatti c'era un volo che aveva 36 passeggeri, Milano, Linate, Roma ne aveva una sessantina, capito? Poca roba proprio. Beh, figurati, che è mai così, non è che ci sono persone che prendono le patologie o domani, figurati, già quando fai cenone dormi minimo, dopo cena dormi alle 3, se ce la fai pure dipende da quello che hai mangiato, quindi a un certo punto il cavolo che è fatta, nessuno parte al limite o a Santo Stefano, quello che è, si prendono 4-5 giorni di relax e va a far culo. Io peccato sono invitato Sonia e tu dice passa domani, dice tanto, dice vengono tutti a prendersi del ponte, gli fa gli auguri domani, mi ha detto, e così ho fatto, figurati, e mi sono divertito con calma, mi sono avuto la birra all'una e un quarto, ho preso il film e sono andato, stavano chiudendo, poi ho cucinato il salsiccione a casa, ho pranzato e adesso mi sto rilassando lì. Questa sera se ne voglio fare qualcosa, c'è il karaoke in via Bugino, vado lì intorno a mezzanotte, era una, sono un paio, un'ora e mezzo, mi ascolto un po' di musica e poi mi mettono a casa. Già fai bene, si negana, è la cosa migliore a uscire. Io, a dire la verità, sono un pochettino stanco, perché quando ti alzi presto così, anche se quando sono rientrato sino dalle 8:30 così sino alle 10:30 mi sono ributtato a letto, ho dormito un paio d'ore, capito? Quello ti ha rigenerato, capito? Se no col tifero che sarei rimasto sveglio a quest'ora. Se recuperi le 2 ore che ti alzi presto, allora già stai bene tutta la giornata. Però voglia di uscire oggi, anche perché giornata brutta, dai, ogni tanto piove, c'è vento un po', quindi non è molto bella oggi a starsene troppo in giro, capito? Una passeggiata di sera già va bene, però è tutto chiuso, ho visto, non c'è traffico. Quando sono rientrato poco fa, proprio semafori senza fila, non è come i giorni scorsi, capito? La città deserta oggi. E mi ero grido, secondo te ieri, che condizioni sono rientrate a casa tutti? Dai, ciccoli, male, cose del genere, ieri sera ti sei frantumato. E capito, figurati tu, stamattina ho chiesto un amico, mi dice guarda che apre mio fratello stamattina, mi ha detto dai, e tu dici che se ne manca a casa, ma secondo te, gli ho detto, uno che beve Martini, ha detto tutta la sera, ha detto non è a te, beve nuovo Martini, oh, arrivato, ho detto dici che se ne manca a casa, ha detto vai. E non ha fatto, infatti è arrivato lì alle 10:30, alle 10:30 ha avviato i cose, ha preso e ha chiuso tutto, che non aveva la manco la pena, quindi figurati tu, e poi che vabbè, lui non beve, quindi però non penso che ci siamo alcolizzati, cazzo, che altri Natale sarà fino alle 3-4 del mattino bevendo, vanno lì a bere verso le 10:30 a farsi una tabella caricata, non credo proprio, a parte quello che hanno bevuto il giorno prima, più che il giorno dopo. via. Stamattina quando sono rientrato sono passato, io salgo da Corso Trinità, no? Salendo, perché ho detto tanto oggi non c'è traffico, non c'era nessuno, c'era un gruppo di ragazze tutte scosciate che sicuramente stavano rientrando da qualche locale, non lo so, lì salendo in Corso Trinità, avevano in testa cappucci di Babbo Natale, tutte a gambe nude, c'era un freddo vero, e loro tranquille, ma erano secondo me ubriache, perché una stava facendo foto, le altre erano davanti ridendo, sicuramente erano gente che stava rientrando dai locali, capito? Ma se no poi non c'era nessuno in giro. E sono stato, l'ha fatto la serata ieri notte, tutta la vigilia fino a 9 mattina, quindi a un certo punto siamo ubriacate, alla fine del cosa hanno fatto qualche drink, no? Io non ci sono riuscito a cosa, in pantaloncini corti e vestiti la cosa, l'ho detto, domani. E ci mancherebbe pure. Comunque, vabbè, anche questo Natale mi sa che è quasi archiviato, tra agnello arrosto, agnello con olive, pasta al forno, e balle varie, e tiramisù, e dolci, e noci, e questo e quell'altro, fichi secchi. Non ne posso più. Ah, io ho mangiato io pasta al forno, agnello, un po' di noci, poi ho bevuto la birra al limone, la verità, ma avevo bevuto quattro neanche. Con gli altri ho bevuto la mattina. Dopodiché due birre con mio fratello mi sono bevuto verso le 8, cioè 6:07, due anni che da Sonia sono andato, dopo andato a casa, dopodiché ho messo a tavola, eccetera eccetera, capito? No, ero tranquillo, ho mangiato tranquillo. Allora uno sono entrato, prima ci ho portato Simone a mezzanotte che non stava bene, c'aveva mal di testa e cose del genere, poi sono salito io alla 1:30. Ho preso, mi sono collegato, addormentato, stamattina alle 10:30, 11, mi sono svegliato, e adesso ecco vado da Sonia, quello che avevo promesso, di fargli gli auguri, sono andato verso le mezzogiorno, qualche cosa, dopodiché cucinato, e adesso mi sto dormendo, rilassando, forse è stata la mia voglia, vado in quel circolo così mi ascolto un po' di musica, e passo fino alle dalle 11 fino alle 2:00 mattina, dopodiché rientro a casa. Quando è avanti ieri pomeriggio rientrando dal lavoro mi sono fermato sotto casa tua lì al negozio che c'è di materiale elettrico perché avevo ordinato una plitta e non era arrivato, invece mi ha chiamato e sono passato a ritirarla perché mi avevano chiamato al telefono e infatti ho visto che avevano calendari, ho detto dammi un calendario così che sono senza e così sono anche a posto col calendario in cucina perché sembra così già è utile avercelo appena cambiano, capito? Io mi metto i turni, mi segno eccetera e a me serviva, ho detto non mi sembra vero perché non ne avevo ancora visto in giro calendario. Allora ci sono i vendite calendari, c'è vendita, mi regalano i calendari, grazie a Dio, e a mattina mi hanno regalato uno, sotto quando ma cubetti mi fa, ma che cavolo mi hai dato, quello del becchio, quello del farmacista, gli ho detto, mancava solo quello, ho detto se vuoi ti faccio le, scendo un attimo dal becchino, ho detto ti faccio quel porta chiave, gli ho detto, con la cassa alla moto, ho detto, almeno te lo devi al collo, gli ho detto, non so che ti scendeva anche al raio, così gli ho detto. E beh, novità poi niente, ieri non c'era nessuno messa in radio. La verità l'ho acceso ieri sera, quindi non te lo so dire, se c'è qualcuno oppure no. Io a dire la verità ho acceso intorno alle 6:30, 7, ma non ho sentito nessuno, poi alla fine tra una cosa e l'altra facendo e alla fine ho spento di nuovo, capito, perché sentivo che non c'era nessuno e alla fine per non lasciare la radio accesa, ho detto se no poi me la dimentico così, ho spento tutto, ho detto vabbè, serata che la gente è impegnata e giustamente se la passano in famiglia e a fare festa, capito? Senz'altro, tutti hanno fatto così sera. Vabbè, la maggior parte aveva passato tutti quanti al bar, lo sai. Di solito escono, bevono e cose del genere, capito? Poi rientrano a casa, cenano, poi bevono spumante, di tutto, quello che c'è, mangiano, fino alle 3-4 del mattino. Poi la mattina, rocco. Da Tonino spesso già ne fanno di quelle cose alla Quetta, al rifornitore lì, che c'hanno quel localino, più di una volta già mi è capitato anche a me di fare le ore piccole lì da loro. Una volta sono andato a mettere benzina di sera, mia moglie mi ha chiamato alle 9, ma sei uscito dalle 7 a fare benzina, si dice non sei tornata, ero là, minchia le cose che ci siamo bevuti, poi sono rientrato a casa praticamente, e sono riuscito e siamo rientrati tipo alle 2 di notte. Non le fa più, vabbè, così non le fa più adesso, non c'è più con la moglie, già lo sai, sì. Sì, già me l'aveva detto un mio collega che abita lì di fronte, che si conoscono, dice si è mollato, lo sai Tonino si è mollato, dice, mi sa che si è messo con la barista, mi ha detto così con quella ragazza che lavora lì. Esatto, sì, quindi adesso chiude presto, chiude, quando c'era da bere facevamo le cene, musica fino a mezzanotte, mezzanotte e mezzo. Adesso è diventato, arrivato alle 9, aiuto, tutto fuori. Cavolo, così ha un cambiamento radicale proprio, perché era lì, era a volte anche pranzi, ci abbiamo fatto pranzi, metteva la musica alta, sino a, come stai dicendo, a volte d'estate anche alle 2 di notte con la musica alta, infatti c'era qualcuno che si è lamentato lì. Sì, già me lo ricordo, si cucinavano, lo sto dicendo, c'erano sempre bistecche, cose, ogni settimana, venerdì, sabato, domenica organizzava da bere, come si chiama, la cena, roba così, hai capito? È lo stesso, io conosco il fratello che è l'altro che ha il rifornitore a Campogiavesu sulla 131, quello in direzione andando a Cagliari, no Peppino, e quello è un altro di quelli divertiti, sta sempre festeggiando, sempre organizzando spuntini, sino a tardi, e abita a Sassari, abita praticamente dove c'è il tappetino, dove c'è quel giardinetto che la gente ci va a correre dentro, sopra lì, salendo a Monte Bianchino, diciamo, da via Luna e Sole Alta, abita lì in quella zona, ci sono quelle villette piccoline, no, lui si è preso una di quelle perché già gli ne girano dei soldi col rifornitore, e la moglie dei paesi dell'est, questo è l'altro fratello di Tonino, è lo stesso, anche lui è uno di quelli che con la birra ci va giù, è pesante pure. Già lo conosco. Ho visto, però è un tipo che non saluta. Ho detto buongiorno, Marco, un culo. Marco mi ha salutato da dire, ho detto piglia di un culo. Ho già notato che lui viene spesso qua per controllare il fratello più che altro. Perché il fratello stava cominciando ad esagerare, ogni lì a mezzo bazzinandomi. Già lo so. Guarda, il fratello è quello con i baffi, mi sa che si fa crescere spesso, lo trovi con i baffi, sempre fumando il sigarino, eccetera, piccolino, è tarchiato anche lui. Già hai capito chi è? No, il sigarino non fuma. Non è baffi. Baffi non è bello. Cioè l'altro fratello sì, quello del quadrato sì. Sta sempre, cazzo, fuma quei pezzo di sigari, ogni volta mi tambinava, gli ho detto, ma va a far culo, tu e sigaro, gli ho detto. lo so, una volta è partita, no? Stava andando, boh, non so dove, stava andando a trovare parenti della moglie, e un mio collega gli ha fermato il morsello perché dentro c'aveva quella specie di forbicione tagliasigari, no? Che c'ha le lame, e gliel'ha fermato. Poi, quando ho visto che l'avevano fermato, mi sono avvicinato e ho detto: Pepì, cosa c'è? E il tuo collega mi sta buttando via le forbici. Ho detto: dai, a me già te le restituisco io. Quando ho detto le portate il fornitore da Torino, vai tranquillo. Quindi le ho fatto partire, poi le ho date a Torino al fratello. Queste gliele hanno fermate all'aeroporto i miei colleghi. Il giallo grillo non puoi più alle cazzo una cosa del genere, né col te dire niente. C'erano ragione. Lui girava con questo tagliasigari nel borsello, no? Che era una specie di coltello che però poi giravi, capito? E c'era la forma del sigaro, capito? Lui a due sa come sono quei due. Invece l'altro fratello più grande, Nicola, però lui vive a Bonorva, non fa altro, c'ha un negozio di mangimi, cose per animali, ferramenta, di tutto, no? Però quello non è come loro, diciamo, si riguarda di più, fa più una vita ritirata, in famiglia, eccetera, ha tanti amici, perché prima anche lui aveva un bar per tanti anni, poi l'ha mollato e si aveva aperto quest'altra attività, però è più tranquillo rispetto a Tonino e a Peppino, capito? Quelli là sono sempre in festa, praticamente. Tonino adesso evidentemente con questa vicenda nuova, che si è mollato con la moglie ed è con quest'altro, gli ha fatto un po' capire, però non tarderà di nuovo a fare le nottate. No, già festeggiamo quella, non ti preoccupare, è tranquilla. Ho visto già, scherza qualche volta, quando vado via a pagare la spesa, cazzo mi controllo la busta, gli ho detto, mi dà limone, eccetera, se ne vuoi ti bevi quella, gli ho detto. No, Antonello, no, tranquillo, mi ha detto. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. C'è qualcuno sul 10? Cambio. Tutti o stanno ancora mangiando o stanno facendo la digestione. Sono addormentati dal letto, in coma, da ieri. In coma etilico. No, io a dire la verità qualche bicchiere di vino ho bevuto mangiando la carne e basta, però senza esagerare, capito? No, io ho bevuto la birra di limone ieri a cena, come ti stavo dicendo, dopo che ho assaggiato lo sguante, ma neanche di mezzo bicchiere di quello normale, di quei bicchieri fini, sguante e poi basta, non ho bevuto altro. Due bicchieri di sguante ho bevuto, ho mangiato un po' di pasta al forno, eccetera, eccetera, la carne, l'agnello, eccetera, eccetera. Poi c'era il casino dei bambini, cazzo, facciamo col cane, e si metteva a cazzo la bella del male, quindi cazzo ero stressato da uno e dei bambini, perché quando i bambini, c'era il cane per i bambini, poi c'era il coniglio, cazzo, di mia nipote, mamma mia, cazzo, per carità. E quando ci sono i parenti è così, che ci sono bambini. Antone, io mi sa che adesso vado, devo portare giù cartone, pacchi regali, eccetera. Mia moglie mi ha detto buttami via tutto questo cartone che ce l'ho all'ingresso di casa, quindi mi faccio questi viaggetti al cassonetto e poi salgo un attimino e ci sentiamo magari più tardi, tanto già lascio acceso, capito Antone? Vabbè, io sono acceso anch'io, ce l'ho acceso anch'io l'apparecchio, non c'è problema, fai quello che devi fare, già solo quando ascolto, dato che ho sistemato il microfono, amplificato, se vediamo se smolla, e così lo sistemo e stasera gli do i baracchi da bombolino, tanto non c'è niente. L'unica cosa è il microfono che riuscì a fare in radio, perché c'era il cavetto dell'audio mezzo tagliato. Adesso vi faccio i collegamenti nuovi e vediamo se smolla la colla. E così lo sistemo. Ho capito, la radio che stavi utilizzando l'altro giorno e già me l'avevi detto. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, Antone. Buon Natale di nuovo. Alle prossimine, ma più tardi già lascio acceso, già sono qua. Magari fai chiamata, già ti rispondo. Io, ok, non c'è problema. D'accordo, ci stiamo dopo, dai. Ciao. Ciao. Tutto a posto, sì. Sì, sono ancora ubriaco, sì, mi è sempre avuto animaccia ieri. No, io invece no, la verità. Adesso stanotte io e Giovanna mi sa che dobbiamo andare vicino a casa di tuo fratello. C'è il circolo, dopo le 10. Ma no, sono circo a casa del grande fratello. E via Bugino, vicino a casa di tuo fratello. Dove c'era la... dove lavora con la botta Bacchisio, la buon'anima. E Bacchisio dove lavorava, ma come lo ricordo, ciao Antu. E Bacchisio dove lavorava Antu, ma un po'. Lì via Bugino, c'era la rivendita di tutto. Bombole, bomboline, eccetera, eccetera, capito? Vendeva materiale per cucina, ma io ti parlo degli anni 80, 85, 90. Ero piccolino. Avanti, bomboline. Capo, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Che sapere che onda in die, Pompo? L'ho usato l'altro giorno tutta la notte, figurati. Adesso ti sto sistemando il microfono, ti sto sistemando così almeno si è a posto. Non mi ha fatto nessun difetto, con lineare, senza lineare, non so perché aspetta, mi ha fatto così. Strano, adesso mi sto usando il Saturn, ecco, già lo senti, c'è il bip. Il microfono, vabbè, quello che sto usando in saletta, però l'ho usato, non mi ha dato nessun fastidio. Adesso lo stai usando, vero? No, adesso sto usando il Saturn, ecco. Che strano, io ti porto l'MB più 4 per se l'ho fatto. Ma penso di no, scusa, se c'è... Vuoi che ti attacco il microfono normale del coso? Vuoi salerta? Vabbè, lo sai, il microfono c'ha dei problemi, però tu mi hai detto questione di potenza, la potenza non c'entra proprio niente, la verità, perché io l'ho pilotato in lineare con... lo sai che era quasi 20 watt, quindi non è che sia, deve ridurre almeno a 15, perché se usi più di 15 watt il finale, dopo un po' che scalda, tende in pratica ad andare in protezione, hai capito? Scende di watt a zero, dopo che la fai da 4-5 minuti riparte e torna, ma non è che si brucia, hai capito? Di quella parecchia là io sto parlando è una cosa logica, non puoi pilotare cazzo con l'ingresso 20 watt quando l'ignale non ti accende, ci serve in pratica un ritorno di radiofrequenza e quindi in pratica ti fa quel difetto lì, però grazie a Dio a me l'aveva fatto, l'ho usato ieri, l'ho usato l'ignale, la verità. Pompando e diminuendo anche il watt addirittura. E chi è questo? Andemmo. Alessio è cotto. Non ero io, no. Sentito sembrava a cazzo che l'avessero mossicato cazzo i coccodrilli. E mi ha fatto innesco l'altro apparecchio che era acceso su un altro canale. Ah, eri tu, ciao, auguri Natali, ben sentito. Auguri Natali, ben sentito, anche da parte mia. e auguri a tutti quelli che sono in ascolto, dai. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. E stamattina mi sono sentito male, ohia, mi sono visto morto. Perché? Cosa hai bagnato? E male mi sono sentito. Stamattina mi sono sentito male, capito? Sì, cazzo, Natalia, sono due giorni da fare, cazzo, fare come ho fatto io, che sono arrivato a pronto soccorso. Ma dico, lei quando è andato? E poi io la verità non me lo ricordo. Tu si guarda la tabella, cazzo, ma lei è nato oggi, e cosa ci fa qua a pronto soccorso? Se secondo me ha detto cosa ci faccio, non dicevo, non a divertirmi, e comunque se non ha niente di strano, gli ho detto, vada fuori, mi compra una bottiglia di sfumato, ha detto festeggiamo tutti, gli ho detto così passiamo il compleanno. A 27 600 c'è Tenerife che arriva a bomba qua in banda laterale. E beh, se per questo c'era gli altri americani verso le 2:30 stasera, segnale 9:20. Ti sentivo io, chiaro, qui in AM, figurate, poi in mano laterale c'era gli inglesi, cosa del genere, dopodiché sono spariti. Vabbè che adesso ce lo sai, la questione del sole, quindi a volte spariscono i segnali, capito, in HF, quindi ci sono quei problemi lì, meno male adesso, a quanto sembra non è ancora arrivato niente. Mica, io ho due stazionari lì e non posso parlare. Ah, io bene, sto andando, prova. Tu già sei uscendo tranquillo, sei perfetto Luca. Perché il segnale tuo è 9, di solito mi arrivi più forte, Guarda che io sto uscendo sempre gli stessi watt, E sempre in questo momento con Saturn Echo sono. E sono liscio. Non ho toccato niente, la verità. Luca, ma perché stai uscendo così basso? Ma no, arriva 9:20 Radio 5, non c'è da problemi. E allora la colpa è dell'antenna, c'è la piena leva. Mi sa che gli hanno fatto una doccia, no? Capo, vai. Ma qua sei 9:20 Radio 5, non c'è problema. Adesso vedo via con dei cose, vedo di Betisella. Vai, cuomane. Ti arriva a fare uno, metti faccio parlare con muro me, vuoi vedere, eh? Ebbene tu, sei combinato ieri? Ma no, niente, siamo stati a casa, abbiamo fatto un karaoke. Ma allora, noi siamo andati da Mirko, no? Poi verso le 8 siamo venuti qua, ci siamo organizzati qualcosina là, da mangiare, poi ci siamo messi nel divano, caputo. Andiamo bene, dai. Domani andiamo da Giuseppe. E domani siamo qua, dai. Siamo qua. C'è mamma a pranzo. Domani cosa c'è perché è Giuseppe? Karaoke. No, meglio. E niente, domani qua siamo. E poi, capodanno vediamo un po'. Se la giornata ce lo permette, il primo dell'anno, andiamo a fare un giro. Un giro, non dica. Sì, allora andiamo, organizziamo, faccio un giro adesso. Va bene, dai. Vediamo un po' com'è. Io lavoro. Primo dell'anno. No, il primo dell'anno no. Primo dell'anno sto dicendo. Una volta siamo andati a Castel Sardo, un'altra volta siamo andati... Dove siamo andati l'altra volta? Ma a Bosa. Faccio a Bosa. Poi una volta ancora da un'altra parte. Sto già a fare un giro, dai. Via la Catrina si bozza. Lui. Riprendi un po', dai. Rosso per me. Meglio così, bovino rosso, fa bene. A tutto. Figurati. Adesso ti culo una barriata. Lasciamo scaldare bene. Falla pompare. No, questa no, ma l'altro sì. Aspettami che scambia antenna, un attimo. D'accordo. Adesso aspetta che attacco l'altro. sono bello abuso. Quando è andata lì mi parla il chino. Aspetta un secondo, la guardaccio. Antone! Aspetta che stava attaccando l'altro baracchino. Ehi, ehi, ehi. Natali, dove mi senti? Con le orecchie. Capo, adesso ho dato un po' di più, dato. C'è antenna che c'ha freddo. E la mia invece è tutta infusa. Ma sicuramente non isola, perché c'è la punta di sopra che è rotta, per quello ti entra l'acqua. Non è rotta, è solo piegata la punta. C'ho la bobina piena d'acqua, vale a dì. Infatti c'ho anche meno ricezione, perché Luca arrivava più forte qua. Intendo basso basso del radio. No, qua c'era 9:20 già. Invece qua Nisba. Sicuramente c'è la bobina piena d'acqua e mi causa anche problemi in ricezione. Sono basso di watt perché sto usando un limitatore piccolino. Se no sento tipo molto picco. Gamba, un po' dove mi senti? 9+6. Ehi, dimmi. Sì, 9+. Cazzo, innesco questo cazzo di microfono, questa baracchina qua. Devo diminuire in pratica l'amplificazione. Sto usando l'altro apparecchio adesso. Va bene, sì. Capa che va bene. Io mi voglio passare con questo per vedere se va. Sì, a voglia se va. 9:30 si è pompando qua. Capa. Ma vado. Sai cosa ha fatto Antonio? Invece della bandiera ci ha messo sulla punta dell'antenna un perizoma. L'ho visto io. Magari di quelli tigrati. Cioè, pochi vatti c'hai, Antonio. Sì, pochi vatti sto usando. Perché sto usando l'alimentatore di quelli modello vecchio, hai capito? Cazzo fischia, non è possibile. Adesso ho aumentato un po' di watt, guarda un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9:20 era di 5. Perché non ti usi un alimentatore di quelli di computer? Perché fa rumore di vento la lucidante, Natalini, già lo sai. Adesso ho trovato la ventola nuova, prendo un po' più grande e gliela installo, come si chiama. Adesso devo avere un pochettino di 5 minuti di tempo, adesso se ce la faccio dopo salto il microfono a coso, Antonio, amplificato di quell'apparecchio che mi ha dato lui, che diciamo, Davide da cambiare, così almeno lo provo, almeno tranquillo. Gappa, cazzo, ho dovuto scaldare per poter, siccome il pezzo originale era incollato dalla fabbrica, capito? Ho dovuto scaldarla appena, in modo che mollasse, se no sembrava tutto un pezzo, sembrava. Gappa. Ma stanotte ancora vai la cosa, Angela vai? No, mi sa di no. Ah, ok, va bene, adesso vediamo un po', se ce la faccio, installo questi cavi, così almeno sei tranquillo, provo il baracchino e mi sembra che vale 10 o 11 di notte Giovanna lì, se ce la faccio per quello radio lì, faccio delle prove, al limite ti salgo l'apparato lì, te lo lascio lì. Insieme al microfono, così lo usi. Tanto qua non dà nessun problema, boh. Gappa. Adesso vediamo un po'. Imbarazzo di barra. No, qua funziona bene il tuo, la verità. Adesso mi stacco questo, attacco il tuo. 2 minuti. Lasciami il tempo di togliere questo cancellare il tuo. Così mi dai un controllo. Però solo con il microfono salta naturalmente. Aspetta un secondo. E chi è che c'è qua? Buonasera. Ui, buonasera Franco. Ciao Antonio, buonasera, augurone a tutti. Grazie, auguri anche a te. KK. Che c'è qua? C'è Pompogno e Natalino. Ciao Natalino, auguroni, buongiorno, buonasera, cioè, che mi sono alzato adesso. Ciao Fra, ben sentito, auguroni. Da dove l'hai fatto? Sono rientrato alle 2:30, dai, ero fuori. In fretta? Ce la pagava? Ce la pagava. Forte ti sto arrivando, c'ho quella roba là, famosa. 9:40 sia tu. Ed io? Tu sei 9:30, o di più no. 9:30. C'ho lo Smith più piccolo. Ehi, ehi, già va bene. Gappa. E allora Natale, che si dice? E che si dice? Chi va giù l'antenna a Donna Bianadeva, deve sì. Poi, quelle antenne è un casino, bisogna guarnirle bene. La mia no, non entra acqua. Beh, tu, come mi ascolti? Bene, bene. Ok, adesso faccio scaldare il gigetto. Così esco con lineare. Allora, fate solo. Quasi 20. Perfetto. Un attimo il telefono. Appaccata con il gigetto, però diminuisco il watt, perché sennò... non vorrei sollecitare i finali, capito? Allora va bene, d'accordo, faccio scaldare e poi rientro subito. E fa scaldare la pentola. Ciao Antonello, buonasera. Ciao Franca, a te buonasera, auguri, auguri per Natale. E auguri anche a te in famiglia, dai Antonello. Come ti sta arrivando lì con le coordinate? Fa passaggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, sto usando l'ala 87. È morto. Ho detto, guarda adesso. Fai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 9, 20, 6. Aspettati, ferma, non fuggire da lì. Guarda, guarda adesso. Sempre uguale. E va? Uguale ma compresso. Compresso sono. Aspetta un attimo. E invece adesso? 9 liscio. E quindi già va bene la pentola. È come la pentola che ho io, delle uova qui qua. Figurati. Ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il segnale è 9:20, però la radio non si capisce niente, è tutta mangiata. Attenzione, Banco California, senti qua, vita mia, questa piccola chiamata che ti chiede, che bella te, che bella. Cava cava Rugariello, quindi mi ascolti pure tu, cava cava di positivo, cava cava. Che bella te, molto chiara, vita mia, che bella. Dove sei a casa? Ammo, a la veloce. Sicuramente sto arrivando 9 lì. Ma se ne svaria, fa tu quanto sei giri lo Smith l'ha fatto. Vabbè dai, abbassa un po', se no un casino, dai, va bene così. Chi era, frate? Tanto, buon voli. Ecco, adesso 50 watt. Aspetta un attimo. Cazzo, un 5 stazionale vecchio. Quasi. Davanti va stagionando i numeri, 1 e 4 con l'acqua, quindi vuol dire nicchisi, nicchisi, nicchisi, a pompa. Oh, ma di volte non era stazionale, mi dà 1 e 2, 1 e 3, 1 e 1, quante volte 1 e 5, 1 e 7, che quando dico, femmine, 1 e 1 e 2, quante volte 1 e 7, Ma tu ci credi che io stazionario non ne ho niente lui? Sì, vabbè, tu hai pure un'antenna nuova, la mia va già per subire 10 anni, vorrebbe smontare e pulire, infatti me lo devo fare lavorare la primavera, poi a Roberto devo prendere le misure per quanto riguarda le staffe, me le faccio costruire quelle in acciaio. KK. Vabbè, questa è un'antenna che non farà nulla, è selvaggio, Cementato ovviamente. Se ci abbiamo avuto la macro da 5 sarei arrivato molto più forte lì, capito? E vabbè, fra, già rende la tua antenna Vuglia, ti sentono dappertutto. Va bene, poi non è, cioè, non è una antenna che se cade fa danno, capito? Non è come la matto qua. Pomponio, ci sei? Fuggito, riprendi il pomponio. Pomponio sta facendo cosa? Natarino. Oh ya, siamo qui. PL, esatto. Fa il culo lo spezzone. E cosa ti faccio sentire? Cosa ti faccio sentire? Gaba gaba. Sì, Antonè, poco fa quando è aumentato si è uscita la saturazione, la radio si capiva niente. Sicuramente gli stai dando troppo ingresso a quella cosa lì. No, è lo spezzone, è andata a culo. C'è l'ispettore dei giudici tutelici, perché l'altro c'era Saverio. Capito? Insieme allo svetto mio, quindi con i giudici tutelici in banda, insieme ai piedi di Fusaro. Io mi faccio seguire i capiti nuovi, va pa' culo. Quei PL di Fusaro non ne servono nulla, li ho tutti buttati via qua. Non avvitano nelle radio, è un casino solo quei PL. E infatti sono diretta adesso, scorso con una tela diretta. Ho staccato il lineare perché in trasmissione esce, in ricezione non dicevo quasi più nulla. Si è acceso la metà, hai capito? Quindi sono i PL, cazzo, che la stazione che è un togliaio. Non servono a niente, quei PL non servono a niente. Io ne avevo un paio, una decina di quelli vecchi, ho utilizzato quelli, capito? Anche perché non abitano nella radio, capito? C'è il rischio poi che sfilitti anche la bocca, la femmina della radio. E io mi sono bruciato via con quei PL di Fusano, lo sai. C'è una radio, un lineare, un filare bruciato. E quindi adesso devo prendermi il filare, cambiare la resistenza all'ingresso e sistemarmelo. Grazie a Dio non ho bruciato altro. Ehi, sono rientrato, eccomi. Antonio. Ehi, avanti. Attaccato ce l'hai. Come? Ha detto sei attaccato adesso. Ehi, K. Ehi, K. 9:40, sì. E io invece sto arrivando a 9 adesso, no? Ma cos'è che è 9? È a fondo scala. Io sto usando 5 watt adesso. Gappa, in questo slitto c'è a fondo scala, e vabbè, siamo vicini. In vicinanza, infatti, non si possono fare le prove, capito? Vai, Luca. Oh, io sempre piovendo sta carca miseria qua. Ma Gappa, ora ti mando una fotografia, ti mando. Sì, vada. Andiamo, vai, andiamo. K27-600 c'era a Tenerife poco fa che arrivava a bomba qua. Però c'ho... Poi se non c'è accordatore, Natalia, è un casino, non ti fidare se c'è acqua dentro. Con l'accordatore bene o male riesce a portarti a zero la stazionaria, ma senza accordatore è un casino, eh. E adesso me lo compro un accordatore. Quando ho i soldi mi prendo un accordatore e gliel'abbino qua. A parte con l'accordatore, quando sei accordata a 1-1 esci anche bene, capito? Già lo so. Io con l'amplificatore accordato 1-1, capito? Senza amplificatore, senza accordatore è sempre 1-1. Con l'amplificatore salgono a 1-2, 1-3, però li porta a 0 accordati, capito? Io già lo so. Ma quegli adori cosa me ne vozzo? Adesso come che cambio l'antenna, vedrai che la musica cambia. E adesso al prossimo anno è più la patente, così vediamo di fare una cosa più seria, dai. E infatti. Tu vedi che ti faccio schiattare. Antonio. Adesso che scendi lì, io mi attacco, che si attacco. E lui va a trovare 4 giri di suo Smith. Natali, sentito, vai. Lo senti quella mania di la potenza di Sant'Antonio Bombolo, avesse attaccato un perizoma nel rugoso di l'antenna, invece di la bandiera poi sul perizoma. Tanto c'è dei voti uno vicino all'altro, cazzo, da buono arriviti, da no Calalandriga. Ma Calalandriga che parliamo, va voi. Cos'è, ci avete parlato in due? Ho detto Calalandriga che ci arrivo. E Calalandriga è buffa. E già arrivo, non ti preoccupare. Sto qua, sempre puntigliando con questa potenza stanno. Bubu. Sì, adesso arriva, adesso se lo fate in peggio. Adesso la luce è pure aumentata, da gennaio è aumentata la luce, quindi qui arrivano bollette belle salate. Ma sono un po' anni. Ha fatto il valore sconto, è vero che ti arrivi così. Se ti dico quanto abbiamo pagato, ti buono arriviti. Ah, buono, lo so. A me mi è arrivata una bolletta di 140 euro. Cosa fai, fra? Un altro puntatore, guarda un monte e non immaghi tutti. 42 euro, abbiamo, 45 euro abbiamo pagato di luce. Abbiamo anche lo sconto noi. 45 euro. Sta casa arrivata pure 400, la penultima che ho pagato era... No, aspetta. Allora, quattro mesi fa, 400... 450. Ogni due mesi, così è Luca. Arrivi da una bolletta da 450 euro. Sì, è aiuto a pagare. Dice, luce consumata. Va bene, se lo dici tu. A me me ne è arrivata una a 130 euro al mese, perché io la pago mensilmente. Invece questa che è arrivata adesso è 81 e qualcosa. Ma carità, tutto caro, Ma mi sto richiamando, fra l'altro ero qua in cucina, ma in camera che mi stavo prendendo roba. Guarda, fammi una doccia. Sì, vabbè, fai. Sì, Luca, quella lì ti conviene alla primavera, la porti giù, te la pulisci tutta e te la ripiazzi quell'antenna. 25 ho pagato io con quei luce. Che cosa vuoi che siano 25 euro, Antonio, in ragno, va bene. No, 25 euro è possibile, ma 45 sì. 25, se si vuole non fai altro, 25. È chiusa a parte lavoro, è come si dice, quindi è arrivato a 25. E vabbè, allora ti è andata bene, dai. E appunto, hai visto l'apparecchio che ho messo sulla vasturia? Quello che c'è il Roger Dippi da spagnolo. Antonio, non ti ho capito niente, c'era un casino allucinante. Ho detto questo sulla Basturia, un apparecchio 200 e si spagnolo, cazzo. Con GPP, non so se ce l'ha costruito lui o cosa, da pochi con GPP strani, cazzo. Guardatelo. E dopo lo guardo, dai. Adesso ho acceso la stufa a scaldare un po' qua, che fa un freddo allucinante il casino. Luca, ti ho mandato la foto. È sotto doccia, Luca. Ti prendi la tali. Asco su Facebook, aspetta. Deve essere questo microfono, ci sono le batterie mezzo scariche. È arrivata adesso. Io oggi me lo faccio arrivare, cazzo. Bello come apparecchio. Aspetta un attimo. Il telefono. Torniamo a normalizzare. Luca, qui, Franco, ci sei? Aspetta un attimo. Dimmi a tu. Eccomi qua, sono tornato alla normalità. Infatti a me sono accorto, dai. Che è abbassato un bel, c'è sceso un bel di segnale adesso. Natali, davanti. Come? Ho detto avanti. Ehi, mi ho staccato tutti gli stazioni, ho messo diretto l'antenna e il rosmetro e buco. Ma quegli spezzoni cosa ne fai? Ti creano solamente problemi e rotture di palle, capito? Meglio diretta l'antenna, ora spezzone, puoi mettere... Io vabbè che c'ho l'accordatore, ma spezzone adesso non la sto usando, sto scendo col cavo diretto dall'antenna. Ma c'avevo il commutatore, invece ho eliminato tutto e c'è solo il rosmetro. Commutatore è lo stesso, un casino, se sono commutatori di non servire, lascia stare, non ne attaccare. No, già è di quelli buoni, però ne l'ho tolto, la giocava di tutto, magari funziona meglio così, però le stazionarie ce le ho lo stesso, aspetta, però c'ho più watt. Beh, normale, quando ho cominciato gli hai tutti gli spezzoni. Come fatto lì a cacchivare, lo credo che ce l'ha più vatte. Che vuoi che te dica? Grazie. Riesci a vedere un attimo, voglio vedere una cosa. Uno e due c'ho. E vabbè, io non aggiungo dai vecchi. Si muove appena appena. E vabbè, io c'ho l'antenna messa male. Se ti succede a 27.600 ce l'avevo due. Beh, allora cambia la frequenza, è chiaro che sarà come stazionare. Anche se allora io la dal 20, da, cioè dall'1, dal 10 sino al 40, sempre uno è qualche cosa, ma poca roba. Quella è una buona antenna, fatta dalla Sigman. Una cosa buona, dai. Ma di chi pulsante nel vaggio, mica fai a volte, sembra una tenna di VU. Però cavolo, io dico una cosa, da fuori però funziona bene. Sì, quello non lo metto in dubbio che funziona bene, chiaramente non c'ho le prestazioni come c'avevo prima, perché prima con la matto da 5 era tutto diverso. Ma non ti credi. Antu, lascia perdere. Qua a parità d'antenna la Mantova 5 non ce n'è, Mantova 5, Mantova 1, secondo me sono un numero 1 in assoluto, no, non ce n'è antenne superiori a quelle, sì ce ne sono, però costano anche un pochettino di soldi, se vuoi spendere un po' di soldi ti prendo un'antenna seria. Ma questa? Infatti, ma infatti io cambiando antenna ci metto una di quelle, claro. Tu immagini, io ero in 40 metri, in 20 metri, in 10 metri e in 15 metri con questa antenna, Natali, non so se hai seguito i nostri passaggi, è praticamente a 1 e 1 di stazionarie, a 1 e 1 di stazionarie, con l'antenna della 27, roba da matti, è una ricezione da paura, segnale oltre 9 più 20. Da paura, non c'è niente da fare, questa è la migliore antenna in assoluto, la Mantova, Nirabogo e boh, e pongo giù l'uizia e basta. Cosa c'hai, quella 7 ottavi? Sì, sì, c'ho la cosa, come si chiama, la Smarttech Gimbal, è arrivata, l'ho già piazzata, nuova, perché l'avevo tolta per andare a quello in Cagliari, e ieri abbiamo fatto le prove con Gianfranco, giusto per farci due chiacchiere in HF, la giuità io passa già, già funziona lo stesso. Segnali da paura, sia io a lui e lui a me, allucinante, in 40 metri, in 20 metri, in 15 metri, a 28.500 poi non ne parliamo come risuona questa antenna, da paura, senza accordatore, io non ne ho neanche nella radio accordatore perché uso il 430, da paura. Ho capito. Giù capito. Hai montato l'antenna per lei? Negativo, ho solamente messo una zanca in più e mi ho preparato lo spezzone grosso di tubo e adesso appena migliora il tempo la piazzo, però tutto pronto. Su cosa arrivi qua, cosa arrivi qua? 9 più 40, manco Roberto Quadrato arriva così, arriva a 35, tu sei 9 più 40 pieno con quell'antenna, getta che ando buono a 7 ottavi, ciu. Già arrivi forse a me. E vabbè, ma da te vicino qua già pompa, 9 più 40, nessuno arriva, quanto è Claudio Di Muros quando è attaccato. Ok, mandami il link di quell'antenna su WhatsApp. Non ha giù link io di questa antenna, digita col telefonino Smarttech J-Pol 27, J in lunga 27. E te la guardi lì, non ne ho link io, assolutamente. La vedo sul computer. Xiaomi ce l'ha cavo che c'ha tutto il sistema, e glielo ho consegnato a lui. Dai, io vi lascio, vi saluto perché me ne passo in VHF, c'è un appuntamento. Ci sentiamo ragazzi, statevi bene, ciao. Ciao, un auguroni a te famiglia. Ciao Carlo, ben sentito. Ciao Natali, buonasera a tutti, chi c'è? Franco, Antonio, Luca.